Letture di Radio 24. È da 50 anni che si discute sull'ingresso della Turchia nell'Unione Europea e ancora oggi non si hanno risposte certe sull'esito. La studiosa di politica internazionale Marta Dassù dialoga con un collega turco dell'Università di Istanbul proprio su questo tema. Pensi che la Turchia entrerà nell'Unione Europea? È una domanda un po' stupida da parte mia, me ne rendo conto. Siamo noi europei ad avere dei dubbi. In teoria, abbiamo avviato da anni i negoziati di adesione con Ankara. In realtà, Francia e Germania hanno già lasciato capire che non accetteranno 80 milioni di turchi nel Parlamento europeo. La porta aperta europea si fonda quindi su un bluff. Prima o poi, finiti i rinvii, la verità verrà a galla. Ma è già chiara al mio collega dell'Università Sabancı a Istanbul. Non credo che Ankara entrerà nell'Unione Europea, mi risponde tranquillo. Sono molti anni che ci conosciamo. È la prima volta, tuttavia, che lo sento parlare così, con misurato realismo. Un tempo si arrabbiava, ricordandomi che la Turchia guarda all'Europa da più di mezzo secolo, senza esserne ricambiata. Oggi mi dice che neanche ai cittadini turchi l'adesione interessa più di tanto. Il sostegno per l'ingresso nell'Unione Europea è caduto negli anni, fino al 30% o poco più del 2010. Il costo di questo matrimonio mancato, aggiunge subito, ricadrà soprattutto su di voi, gli europei, perché perderete la forza vitale di un'economia in espansione rapida, più 5% nel 2010, di uno snodo energetico essenziale e di un paese che gioca ormai sotto il cappello delle teorie neo-ottomane del ministro degli esteri, Ahmet Davutoglu, una sua partita peculiare fra Europa e Medio Oriente, fino all'Asia centrale turcofona. Il nuovo spirito imprenditoriale dell'Anatolia si inserisce qui. Insomma, argomenta gentile ma secco il mio collega di Istanbul. Quello che potevamo avere dall'Europa, noi lo abbiamo avuto ed usato. Il partito islamico di Recep Erdogan, in 8 anni di potere, ha utilizzato le riforme democratiche chieste da Bruxelles per liberarsi dei militari, garanti storici della laicità kemalista. E a parecchi decenni dalla fine della Guerra Fredda, gli Stati Uniti e l'Europa non sono più l'alfa e l'omega della geopolitica turca. Rifletto su queste parole, mentre penso che la Turchia non abbia tutta quella libertà di azione di cui parla il mio collega di Istanbul. Per ragioni economiche, la Turchia ha certamente bisogno di mantenere gli agganci europei. Germania e Italia sono i suoi primi partner commerciali. E in politica estera, le aperture orientali di Davutoglu, il motto è di avere zero problemi con i vicini, a cominciare dall'Iran, sono bilanciate dai rapporti con la NATO. Se si aggiunge che i governi europei restano divisi fra chi frena in modo abbastanza esplicito, Parigi e Berlino, chi tiene aperta la porta, Roma, e chi propende comunque per l'allargamento, Londra, lo stallo è assicurato. Anche se non esistesse, ma esiste, c'è il nodo di Cipro. Abbiamo perso la Turchia? Gli Stati Uniti, la cui relazione con Ankara è stata danneggiata dall'intervento in Iraq, pensano di sì e ne attribuiscono la responsabilità principale a noi europei. L'Unione Europea, invece di andare verso una crisi annunciata con Ankara, dovrebbe tornare al punto sostanziale. La Turchia, proprio per realizzare il suo potenziale economico e di potenza democratica emergente, deve avere una sponda europea. E l'Europa deve avere una sponda nella Turchia, se vorrà affrontare con qualche successo le sfide economiche e geopolitiche alle sue frontiere sudorientali. Ipocrisie e bluff da entrambe le parti non servono. Serve una Turchia capace di pensarsi come potenza europea, prima che asiatica, e serve un'Europa capace di risolvere uno dei dilemmi che la sta minando: come continuare ad allargarsi senza indebolirsi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Ankara UE, sposi promessi ma sempre più lontani, di Marta Dassù, pubblicato dalla Stampa di sabato 22 gennaio. Vi ricordate dei 33 minatori cileni intrappolati sottoterra per 70 giorni? È stata la più spettacolare tragedia a lieto fine del 2010. Ma oggi dove si trovano? Fra show televisivi e convegni universitari sono richiestissimi in tutto il mondo. Edison Peña, quello che scarpinava al buio nei cunicoli per sentirsi vivo, un mese dopo stava già correndo la maratona di New York, 5 ore e 40 minuti, tempo decente. La notte di Natale era su Rai 1 a cantare da Milly Carlucci e 10 giorni dopo a Memphis a visitare i luoghi sacri del suo idolo Elvis Presley prima di farsi intervistare da David Letterman. Tornato nel suo Cile, la settimana scorsa Peña ha scoperto che gli stanno togliendo l'indennità di malattia, concessa a tutti e 33 i celebri minatori di San José, al posto dello stipendio. Ma a patto che si curassero il corpo e la mente, non per andare in giro come uomini sandwich della più spettacolare tragedia a lieto fine del 2010. Ed è così che allo psicologo Alberto Iturra, uno dei volti noti dei 70 giorni di reality dal deserto di Atacama, la battuta è venuta facile. Dopo essere venuti fuori dal centro della Terra, ora è il caso che sulla Terra questi ragazzi ci atterrino. Come Peña, altri 10 minatori rischiano di perdere il sussidio. Hanno saltato troppi controlli medici e sedute dallo psicologo. Qualcuno per pigrizia e scarso interesse, altri per eccesso di impegni, soprattutto internazionali. Negli ultimi 4 mesi, Los 33 della famosa miniera sono stati invitati un po' ovunque, tutto spesato. Alla CNN di Atlanta, a Hollywood, a vedere una partita del Real Madrid e poi una della Lega Inglese. A fine mese saranno a Disney World, Orlando, con familiari al seguito. Agli impegni collettivi si aggiungono quelli individuali e qui lo spartiacque della fama sta già colpendo implacabile. Non tutti gli eroi di Atacama hanno lo stesso valore. Per un Peña che uscì dal cunicolo con la fama di rocchettaro e maratoneta, da cui le esibizioni pubbliche, c'è il povero Carlos Mamani, il boliviano del gruppo, che è tornato nella sua baracchetta alla periferia di Copiapò, senza acqua e fognature. Quando è andato al municipio della città per farsi assegnare un terreno e mettere in piedi una casa decente, gli hanno risposto picche. Oggi ammette di aver sbagliato tutto. Sono timido e introverso. Quando sono tornato a casa volevo solo stare in pace con i miei. Ho chiuso la porta ai giornalisti e la sto pagando cara. Anche del famoso lavoro offertogli dal presidente Evo Morales non si è saputo più nulla. Tutto il contrario di Super Mario Sepulveda, il reporter del gruppo, quello dello show in Mondovisione al momento del salvataggio. Abbracciò tutti i presenti, fece il galante con la moglie del presidente, distribuì pietre ricordo dalla miniera. Una settimana dopo già correva nudo sulla spiaggia davanti alle telecamere della rete americana ABC. Sue le prime interviste con dettagli inediti sui 70 giorni nel sottosuolo. Memorabile la sua dichiarazione. «Mi devo trasferire da Copiapò a Santiago per stare più vicino alle TV». Oggi Sepúlveda continua a fatturare, ma non più in dollari. Riceve inviti dalle università cilene per conferenze motivazionali. Insieme all'amico Omar Reigadas, un altro degli estroversi, racconta come si vincono le avversità, come ci si mantiene vivi in condizioni estreme e si gestiscono i rapporti con i compagni di sventura. Luis Urzúa, il gran capo del gruppo, l'ultimo a uscire dalla miniera, ha chiuso un contratto analogo con una società che gli ha organizzato un tour Stati Uniti-Cina-Portogallo, sempre per conferenze e comparsate. In 54 anni Urzúa non era mai andato oltre la sua città natale e i dintorni. Chi l'ha sentito parlare in pubblico dice che se la cava più che bene. Meglio che lavorare in miniera, è il caso di dire. Ma la fama è davvero un impiego duraturo? Alcuni dei 33 non lo pensano affatto e si stanno organizzando il futuro. Dario Segovia investirà il denaro ricavato in questi mesi per mettere in piedi una bancarella di frutta nei mercati, uva e albicocche, per cominciare. È un altro di quelli che stanno perdendo l'indennità. Altri torneranno in miniera, dove, per inciso, gli stipendi non sono affatto male per gli standard locali. Qualcos'altro comunque dovrebbe ancora arrivare nelle tasche dei minatori. Dopo molte notizie contraddittorie sui diritti di futuri libri e film sulla vicenda, nei giorni scorsi l'attendibile Hollywood Report ha scritto che i giochi sono ormai fatti. Uno studio legale di Santiago ha trattato a nome di un'unica società controllata dai minatori che dovrebbe vendere a una major un pacchetto unico per la storia. Tutti i 33, quindi, ricaverebbero benefici di libri, documentari o fiction sulla vicenda. La storia piace in particolare alla Plan B di Brad Pitt, che pensa a un lungometraggio. Dove invece l'effetto Mineros si è decisamente attenuato è nella politica cilena. Dopo la sovraesposizione mediatica, 24 ore in piedi ad abbracciarli tutti, il presidente Sebastián Piñera aveva avuto un picco di popolarità che era arrivato al 63%. 4 mesi dopo è già tornato ai livelli precedenti e viaggia intorno al 47%. Eccone un altro che dovrebbe stare attento alle ubriacature. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Dal Cile a Disney World, le nuove vite parallele dei 33 minatori, di Rocco Cotroneo, pubblicato dalla rivista 7, allegata al Corriere della Sera di giovedì 27 gennaio.